Noi ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cruciani, sono talmente malato della zanzara che tutti i giorni dopo aver ascoltato il podcast vado su YouTube e ascolto Riccardo da Roma, Donato da Varese e Mauro da Mantova. Vabbè, fatte ricoverare, eh? La zanzara è una nave corsara e noi pirati si teme solo la bonaccia. Questo sembra Cecchi Gori un po' più giovane. Mio papà è passato ad ascoltare i podcast di Vittorio Zucconi alla zanzara. Basta questa zanzara. Beh, siamo... Madonna. Tuo padre ha fatto molto molto bene. Io inizierei con Crozza che dà delle merde a Salvini e a Trump. Salvini e no, Trump. No, non proprio delle merde. Delle merde, delle merde. No, ovviamente, non proprio. Per carità, è ironia e satira. Ecco, perché, ecco. Ma certo, non c'è dubbio. Crozza per me è sempre il numero uno. Sul podio è il numero uno assoluto. Però anche lui un po' fa politica. Cioè, no, attraverso. Beh, no, ma dai, ragazzi, ma è chiaro che è così. Esprime. Ah, attraverso la satira, esprime le, veicola messaggi. No, sì, vabbè, esprime le sue idee politiche. Cioè, lui considera Salvini e Trump delle merde. Poi, ovviamente, sì, magari non li considera proprio delle merde. Però è più facile, attraverso la satira, dire che sono delle merde. E diciamo con un sorriso. Però gli dice che sono delle merde. Salvini e Trump insieme. Che figata. Sai, Giova, avrei voluto essere una mosca. No, non per sentire cosa dicevano, solo per avere l'imbarazzo su chi posarmi. Beh, è chiara la cosa, dai, su. Cioè, è no, talmente... dipende. Beh, come cioè... no, dai, è talmente chiara. Le mosche si posano su che cosa? Scusa, non è che si posano... Le mosche... Sul gelato su... alle fragole, dai, su. Beh, cioè... alle volte anche sì. Ma dai, su. Alle volte anche dai, sì. Secondo Salvini... Renzi ricatta Berlusconi questa mattina da Milan, sentiamo. Renzi in qualche modo ha il modo al governo per ricattare le aziende di Berlusconi. Non sembra evidente, ci sono alcune centinaia di milioni di euro in ballo che riguardano Mediaset. Ora è chiaro ed evidente e naturale che oltre al politico c'è anche l'uomo d'azienda e il papà che vuole lasciare ai figli aziende assolutamente sane e rigogliose, e posso immaginare, come possono immaginare altri, che ovviamente fare la guerra totale al Presidente del Consiglio, che ha in mano il potere di scegliere se e quanto far pagare o far guadagnare le tue aziende, non possa lasciare completamente libero di scegliere nessuno. Il ricatto di Renzi a Berlusconi. Però ragazzi, la puttanata del giorno c'è sempre, è sempre presente, è sempre, è un classico, è inutile, non ci non la perderemo mai la puttanata del giorno, non ci mancherà mai. E la puttanata del giorno, sempre se la cosa verrà confermata, è quella del signor Grillo, del signor bravo, Grillo. C'è, allora, cosa c'è, ha detto c'è. Grillo? Era a fare uno spettacolo a Catania. Ha detto che Casaleggio è morto per colpa dei giornalisti, per le cattiverie che scrivevano su di lui. Tutti i giornali che lui aveva querelato hanno poi pubblicato editoriali commossi. Commossi. Ancora manca l'audio, devo dire la verità. Manca l'audio di questa roba qui. Però più è stato l'hanno confermato. Tutti i giornali l'hanno riportato. Non c'è stata tutti, nessuna dai, smentita, perché a un certo punto Grillo dice queste cose, sentite. e tutti questi giornalisti che hanno parlato benissimo negli editoriali di lui, tutti quelli editorialisti, lui li aveva querelati tutti, perché diciamocelo veramente sul serio, è stato attaccato vilmente da chiunque, cosa c'era dietro, cosa non c'era dietro. C'era un uomo strapitoso con una famiglia normale. Poi avrebbe detto quella l'hanno frase ucciso, lì. L'hanno ucciso, è incredibile. L'ha ucciso la Repubblica, il Corriere, la Stampa. Lo hanno ucciso. Ma no, beh, hanno messo poi una stronzata, al collo, dai, morto, su. Ma è morto finito. Di cancro, scusa. Lo dicono anche in Germania. Ma in Germania, dicono che hanno ucciso Casaleggi. Ma non è vero, non l'ho letto la io. La Galassia Gutenberg è morta, l'hanno ucciso. Ma non è vero. Il Sole 24 Ore, quando diceva fate presto, diceva fate presto per ucciderlo, sì? È chiaro. No, ma è evidente che il napoletano lo porteremo in giudizio. Un attacco scellerato. Fate presto. I giornali dicevano fate presto. Il giornale della Confindustria. Dici, si riferiva al cancro, No, si riferiva a Casaleggio. Fate presto a farlo fuori. Ma c'era, non è vero, era un'altra cosa. A caratteri cubitali. L'altro giorno sono stato qui al Sole 24 Ore, ricevuto nella stanza di Napoletano. Sono salito orgoglioso, aveva la copertina di questo giornale. Fate presto. Hanno ucciso Casaleggio. Ma non è così. Ma è che sono stato, l'ho visto con i miei occhi. Sono salito su, c'era Napoletano che parlava. Ci ho fatto presto, e io non riuscivo a capire. E poi ho capito, ho collegato i link, la rete, ho messo insieme tutto e ho capito che lo volevano morto. Poi si contraddicono tra di loro. Sentite Cancellieri, che è un rappresentante importante del Movimento 5 Stelle alla Regione Sicilia, che prima sostiene. No, sentite. Lui faceva un distinguo, dice, mentre cioè, quando parlano di me male i giornali, dice, io poi li mando a quel paese, mi libero. Sì. Lui, essendo una persona più timida, più introversa, invece si teneva tutto dentro. Ed sono stati proprio quegli articoli ad averlo ucciso. Cioè, nel senso, lui ha voluto anche un po' enfatizzare quella frase. Poi invece lo stesso Cancellieri dice non ha mai detto che lo hanno ucciso il giornalista. Gli articoli da chi sono scritti? Da mio nonno? Dai giornalisti sono scritti, no? Dai. Non ha mai detto che avrebbe ucciso i giornalisti, cioè sarebbe stata davvero una roba, diciamo, fuori dal mondo. Non era questo proprio completamente il senso. Allora, però la cosa incredibile di oggi è ancora un'altra. Il candidato di Forza Italia, lasciato da solo, Bertolaso, no? Il quale dice, credo al Corriere TV, che è pronto a dare un contributo, cioè praticamente a fare da consulente, da assessore, sia a Giachetti che alla Raggi. Cioè, ragazzi, ma se uno si vuole mettere nei guai, continua a mettersi nei guai, Bertolaso, amico mio. Cioè, ma che cosa vuol dire? Che tu sei bipartisan, ma sei candidato per Forza Italia, non puoi dire comunque farei da consulente, da assessore a Giachetti, alla Raggi. E dai, su. Qualora vincesse, che so, Giachetti o Marchini o la Raggi e le proponesse un assessorato dicendo lavori pubblici, eccetera, eccetera, lei accetterebbe? Potrei sicuramente dare il mio modestissimo contributo, certo, se me lo chiedono, per affrontare alcune questioni di carattere tecnico. Ragazzi, voci dal quartiere sanità, andiamo a Napoli, torniamo a Napoli come al solito. Rione sanità. Voci dal Rione, sì, Rione, bravo, dal Rione. Conosco sanità. Benissimo Rione, senti. Manca il lavoro, manca il lavoro, ci vuole il lavoro, lo Stato non fa un cazzo, manca il lavoro. Senti. Fate presto. Si spara. Babbo, si spara a tutto parte, no? Lo dice un po' come se fosse una cosa normale qui. Sì, è una cosa normale, perché a tutto quanto si spara. Tu le sono che fate che giù. E basta. Cioè si spara perché non c'è lavoro, sta dicendo. No, non lo so. Qua dei ragazzi, spesso dei giovanissimi, girano armati sui scooter. Sono normale. È normale, non la sconvolge che i ragazzi girano armati qui? No, è normale. È normale, vabbè. Dai, andiamo avanti. Succede. Come succede in tutti i posti dell'Italia. Punto e basta. Noi abbiamo questi omicidi, gli altri si mangiano i figli e i genitori, basta così. Quindi per lei è una normalità, diciamo, questa è normalità, non c'è nessuna normalità. E sono i casi della vita, sono destini, ognuno ha un destino. ognuno ha un destino, i casi della vita, gente che gira armata per il rione sanità, è tutto normale, è tutto semplice, ammazzamenti, pezzi d'Italia che non sono governati, dove la gente può dire che è normale girare con la pistola, ma se uno ti dice è normale girare con la pistola, non c'è niente da fare, ragazzi, cioè alcuni posti dell'Italia andrebbero chiusi per un certo periodo, proprio chiusi fisicamente, circondati fisicamente, fatta tabula rasa, controllati carte d'identità di ciascuna persona, sospendere i diritti, sospendere in quella zona. Sì, ma per forza, è dai. Impazzito, sì. Ma che è impazzito? Così bisogna fare, come nei film. Se non fai così, non se ne esce, non c'è niente da fare, dai. Dov'è poi? Un colpo un po' no, sono stato assente. A me sta cosa dello stato assente mi fa impazzire. Sei d'accordo pure tu? La cosa incredibile è questa. Beh, sì. Dai, rione sanità. Per te è normale che si spara qui, in questa zona? Non è normale, però cioè, se lo Stato comunque è assente, è vero, la colpa un po' è nostra perché noi dovremmo parlare, però cioè, io credo che lo Stato debba capire che noi cittadini abbiamo comunque paura. Allora ragazzi, abbiamo comprato un maiale, mi scrivono degli ascoltatori, no, io lo sai che voglio comprare un maiale, magari stasera ci provo, abbiamo in tre amici, abbiamo comprato un maiale, a marzo lo abbiamo trasformato in salsiccia, bistecca e guanciale, possiamo raccontarti la nostra esperienza, beh un'esperienza fantastica praticamente, che è quella di affittare, comprare un maiale, un migliaio di euro circa e poi a seconda del peso, e poi assistere anche alla sua trasformazione, alla sua trasformazione naturale, naturalissima. A proposito di queste cose qui, un tocco lo diamo sempre, una pennellata al tema vegani carnivori la diamo sempre, l'amico Red Ronnie si è rifatto vivo, il quale dice che con un'alimentazione guarisci dal tumore e dal Parkinson. A me sta gente che si improvvisa scienziati mi fanno impazzire, guarda. Ho assistito all'applicazione della macrobiotica a stadio zero, quindi elementi solo crudi, vegetali o cotti con i raggi del sole, e questa professoressa si è guarita con l'alimentazione da un tumore e poi guariva allo stadio terminale Alzheimer, Parkinson e diabete solo con l'alimentazione in pochissimo tempo. Ma dai su Red, ma che cazzo ne sai, che questa qua è guarita dal tumore, dal Parkinson, solo con l'alimentazione, dai, ma non è possibile una cosa del genere, dai. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato, e traffico. La zanzara. Cruciani, ho sentito che vuoi adottare un maiale, ma non andare troppo lontano, ce l'hai di fianco a te, si chiama Parenzo, ciao! Sì, ma guarda, caro amico, che il maiale è un animale intelligentissimo, mi dicono, molto intelligente, per cui quella che tu pensi sia un'offesa, esatto, magari non è un'offesa, eh? Allora, voglio farvi riascoltare quello che ha detto un candidato di Pordenone. Molti dicono che dovrebbe essere escluso dalle liste elettorali, dovrebbe essere escluso dalla lista, dalla corsa al sindaco di Pordenone, che è una città importante del Friuli. Il signor Polegato, il quale l'altro giorno... Polegato. Quel demente ristoratore. Sì, il ristoratore di un posto che si chiama, credo, Sequels. Speriamo che glielo chiudano. Ma no, ma dai, chiudere il ristorante, no, addirittura. Ma figuriamoci, ma cosa vuoi che ha detto? Ma che lo vuoi sull'astrico? Fondo? Lo vuoi sull'astrico, il signor Polegato? Vorrei, non ho capito. Lavori socialmente utili, uno che dice che bisognerebbe impalare Vendola. Ma vabbè, ma Vendola se lo querelerà. Ma cosa può dire di più? Cosa può dire di più? Usa anche lì, vabbè. Non ho detto vabbè. Meteo. Ma non ho detto vabbè. Telefonate, ascoltatori, Giovanni da Torino, con Coglione da Como. Ci penserà bene. A querelarlo, cosa cazzo vuoi? Ma uno cosa deve dire di più? Non riesco a capire, cosa deve fare di più? Siccome ha detto una cosa per destare la tua indignazione. No, ma non è questione di indignazione. Basta, mi sono seccato. Traffico. No, Giovanni d'Angola. Maledetti froci, maledetti tutti. Grazie del contributo. Quale contributo? Allora, Polegato, ragazzi. Polegato ha detto queste cose qui. È proprietario di un ristorante, si candida a sindaco di Pordenone. Molti dicono che dopo queste sue affermazioni la zanzara dovrebbe essere cacciato. La lista elettorale dovrebbe essere praticamente cancellata. Io non so se si possa fare. Comunque le dichiarazioni sono queste, sono contro Vendola, contro Napolitano, contro Mattarella, contro tutta la classe politica, esaltazioni del Duce, eccetera, eccetera. Polegato! Che ne pensi degli omosessuali? Allora, gli omosessuali maggiorenni mi va bene, a me non mi piace il discorso che adottino dei figli. Per me dire, avendola, ti dico, io gli farei una castrazione chimica e lo impalerei, punto. Impalerei, è difficile trovare il palo grande. Ma io spero che lo querelino, ma veramente, buttino via la chiave. Ma speriamo che mi querelino, guarda. Ma come si permette? Lo impalino. Ascoltami una cosa, uno che adotta i bambini, per me va castrato chimicamente, capisci? È impalato, è un matto. È impalato pure, dici. È impalato anche. Io ridevo per il palo grande, che non capivo la metafora del palo grande, non è che ridevo per le cose che sì, mi faceva ridere perché è il cabaret, però poi non capisco che collegamento c'è, cioè se tu adotti i bambini evidentemente con la castrazione chimica, non capisco qual è il collegamento, capito? Cioè la castrazione chimica insieme alla, se tu adotti significa, ma no, che... ma è un personaggio schifoso, cioè ma è una roba proprio siamo brutta. Alla commedia dell'arte, però ma quale commedia siamo? Dai. A ancora chi sono i traditori dell'Italia? Oggi chi sono? I primi? Tutti quanti. Ma facciamo una lista? Iniziamo dal capo dello Stato, i capi dello Stato, perché Napolitano è il peggio pezzo di merda che ci sia. Ma ci sono pezzo stati di merda? Capi di Stato. Poi? Sì. Poi dopo anche adesso. Ma come si permette? Un capo di Stato archiviato, messo dentro, come si chiama, nel dimenticatoio, lo tirano fuori, Mattarella, che nessuno l'aveva mai sentito, perché sì. Mattarella, chi cazzo è Mattarella? Ma chi è Mattarella? Mattarella sarà un mafioso come tutti gli altri. Sai, Napolitano pezzo di merda e Mattarella Mamma. Mafioso. Quello ha finito. Ribalton vuol dire l'Italia rovesciata. Adesso allora io ho scritto che siamo governati da massoni, da mafiosi e da marionette. Addirittura massoni, Vabbè. Mafiosi e marionette. Meglio quelli dei fascisti. E allora ho scritto, io volevo scrivere, uccidiamoli alle spalle per altro tradimento. E ho scritto, mandiamoli in galera per altro tradimento. Ma solo ho capito. Il nostro slogan è raddrizziamo insieme l'Italia, ma si vuole raddrizzare con un po' di manganello, Conclusione. Scusa, Polegato, io non ho capito una cosa, ma. Viva il Duce comunque, sempre. Viva il Duce. Speriamo che lo vadano ad arrestare, dai. Ma anche oggi, viva il Duce? Ma per forza, oggi sono in lutto, ho messo la fascia al lutto, perché io sono in lutto, oggi non è stata la liberazione. Sì. Non abbiamo liberato. Il Duce, ricordati che nel primo periodo ha fatto grandi cose. Questo era un candidato sindaco in una città importante come Pordenone. Alessio da Padova, vai. Eccomi Alessio, qua, che ciao. Succede? Che hai fatto? Dimmi. Sto qua. Vai. Persona che hai a fianco, no? Come? Volevo dire alla persona che hai a fianco, al signor Parenzo. Sì. Praticamente lui è quello del political correct che difende Sì. Nessun political correct. Una persona muore... bisogna rispettarla, persino i rapinatori che vengono uccisi in flagrante li difende, adesso invece prendeva per il culo Casaleggio del tumore coglionandolo, non è corretto. No, ma che c'entra, quella è una... quella no, è una... ho preso per il culo le dichiarazioni di Grillo, siccome Grillo è un comico, siccome Grillo è un comico, nessuna malattia, io ho preso in giro Grillo, che la frase di Grillo che i giornalisti avrebbero ucciso, io su quello ho scherzato, non mi permetto di scherzare. Su Alessio, non dire cazzate, dai, su, non ha preso per il culo Casaleggio per la morte, per il cancro, dai. Bene, adesso vedremo cosa ne pensa gli altri, dopo volevo dirti che stiamo ancora aspettando il segnale per l'ascoltatore. Non ho capito, Alessio, dimmi. Pulitzer per il tuo grandissimo scoop sulle patatine sporche di Piscio, mi sembra che l'hai vinto tu, no? Ma cosa c'entra adesso? Le patatine di che cosa? La settimana scorsa ha detto che sta preparando uno scoopone con le patatine sporche. L'ha detto? Non l'hai detto? Che c'è questa... Scusami, Alessio, di cosa stai parlando? Ma di cosa sta parlando? Scoop delle patatine sporche di Piscio. Ma di che cos'era questa roba, scusate? Lui l'ha detto, che stavate parlando delle programmi ultimamente. Sta preparando lo scoop... che ha scoperto. Ma non è uno scoop, ma lei ha la testa tu. Piena di merda o mi sbaglio? Mi sembra di sì, dai. Piena di merda, cazzone. Io non beh, intanto parliamo bene, intanto non offendiamo, demente, no, perché tu altrimenti che qui... con la testa piena di intanto, merda, caro... io ti ho offeso, sei capace solo offendere. Lei ha detto che fai lo scoop. Allora, tu purtroppo allora, il suo problema di questo cosiddetto Alessio da Padova, poveretto, sì. È quello che non capisce. Allora bisogna avere compassione con chi non capisce. Spiegamelo. Allora io intanto non ci diamo di lei perché io non la conosco. Spiegamelo, detto, lo dice a sua sorella o a sua madre. Ma visto che non intanto. Mi conosci, come mai sai che ho la testa piena perché di merda? Perché lo sento da quello che dice, questa è una constatazione, un dato di fatto. Allora ragazzi, adesso ho ricostruito. Testa di merda è un dato di fatto, mi pare, da quel che dice. Perfetto, allora spiegami lo scoop che ti assegnano il Pulitzer. Non è Pulitzer. L'hanno fatto 30 anni fa con lo scoop, svegliati, cazzone. Ah, lo conosceva già allora. Certo, lo conoscevo, perché certo, ci vado a pisciare certo. Quando ti vedo a te nei bar, certo, piscio dentro la porta. Certo, hai certo. Ah, era sul, sull'aperitivo, sull'aperitivo, cioè, era sul andare fatto, in bagno. Sì, andare in bagno. Certo. Sul fatto che i programmi di formazione ora si occupano molto di cibo e quindi ho detto che una delle prossime cose sarà quella di verificare le patatine dei bar, dove i pisellini piccoli come quelli di Alessio quando vanno al bar a fare i loro bisogni. Cioè gli hai detto in due minuti che avrà testa piena di merda e che c'ha il pisello piccolo. Beh, sì, però sono andati di fatto, purtroppo non è un problema, cioè non è un'offesa questa. Vabbè ragazzi, ci sentiamo fra poco, fermi tutti. Alessio, mi raccomando, resta lì collegato che dopo facciamo una bella bella battaglia. Piuttosto che comprare il libro della Sant'Anché divento vegano. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cos'è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. La Zanzara. Cruciani, Parenzo, Luca e Clarissa dal Frühlingsfest, la festa della primavera di Stoccarda. Ma lo sai che tra birra e salsiccia qui ci sono direttamente le navette che portano ai bordelli? Ma già ti ci vedo, Cruciani, già ti ci vedo, manchi solo tu, siamo al top! Das sag ich dir auch auf Deutsch, lieber Cruciani, wir sind an der Spitze! An der Spitze! Ma chi è sta matta o matto? Che era la voce femminile dopo quella? Ma chi è? Non si capisce, non si capisce. Allora, eravamo con Alessio da Padova che attaccava Parenzo, si attaccava una vicenda. Non capisco qual è il punto, Alessio. Però Alessio, a Padova è conosciuto da tutti. Ma come è conosciuto? No, gli dicono poveretto. Tagli a offendere le persone. Cioè, lo compatiscono tutti. Anch'io è conosciuto. Ti compatisco, dai, vai avanti, dai, sentiamo, dai. Poi... È compatito. Ma è compatito perché cosa? Spiegami perché. Perché? Ma perché lo senti, è evidente, dai. Cioè, da che cosa? Che fa? No, che fa? Per che il cosa modo ha? Di fare, per com'è, per... lo sanno tutti. Da una parte. Sai cosa dovresti fare? Intanto stare zitto 20 secondi se ce la fai. Imbecille. Sì, sentiamo. Sì. Ecco, secondo, imbecille, dovresti chiedere scusa. Sì, scusa. Hai capito quello che hai detto prima? Prendere per il culo la gente col tumore. Un minuto lo conosco fa, ancora questa storia. Sto parlando io. Fallo parlare. Ma allora non capisce? Ma allora purtroppo non capisce. Risaputo che non capisce. Chi ha preso per il culo? Spiegami. Ha preso per il culo Casaleggio facendo il coglione del tumore. Ho preso in giro. Ho preso in giro Grillo, ho preso in giro Grillo. Questo è stupido. Un minuto fa Remo Girone, che è successo? Questo è stupido. Radio 24, fate la pubblicità della Lega contro il tumore. Remo Girone, ecco, perfetto. Ti pare bello, deficiente, che vai a offendere la gente che ha i tumori, vai a prendere per il culo? Scusi, povero mentecatto di Alessio. Io non pretendo che lei capisca, perché è evidente che non può. Non ce la fa materialmente, questo è evidente. E mi dispiace per tutti i suoi parenti più stretti che devono subire una persona come lei. Dopodiché io, come tutti hanno sentito, ho preso in giro Beppe Grillo e le sue affermazioni rispetto al fatto che sarebbe stata la stampa, i giornalisti. Allora, i giornalisti, la stampa. No, allora, non pretendo che Alessio da Padova, aperta parentesi, molto conosciuto in tutti gli ambienti equivoci della città, chiusa parentesi. Lascialo parlare un attimo, sennò se vi si farà ponete, non si capisce niente. Di offendere i parenti delle persone che magari sono morte una settimana fa. Ma di cosa sta parlando? Di merda. Eccolo. Smetti di offendere i morti. Senta, che non povero imbecille, povero imbecille. Adesso bisogna dare un taglio a questo idiota, perché sta un po' esagerando. Allora, mi pare che sto coglione sacco di merda sta esagerando un tantino, perché so dire le parolacce anch'io. Ma che è successo? Non ho capito. Alessio, so dirti le parolacce anch'io. Chi è che avrebbe offeso chi? Imbecille. Chi avrebbe offeso? lui dei miei parenti, che ancora. La vergogna dei parenti. Ancora. Ma sì, ma è evidente che è la vergogna di chiunque a Padova, questo qui. Alessio da Padova è conosciuto da tutti. Ogni volta dicono chi ha chiamato alla radio Alessio da Padova. Oh mamma mia, poveretto, è un idiota, lo sanno tutti. Lo ha confermato lui con le cose che ha detto, perché non capisce. Non capisce quello che ho detto. Ancora. Ma questo lui è stupido. Ha preso in giro Grillo, non Casaleggio. No, allora... Sì. Non ha gigioneggiato è stupido, sulla malattia di Casaleggio. Poi ha fatto una parodia. È stupido, chiudi, è stupido. Basta offendere deficiente che ti denuncio. Vabbè, ragazzi, dai, forza. Sei dai, stupido, purtroppo. Andiamo a Milano, Pino. Avanti. Ciao, Alessio. Pino, Milano, mamma vai. Mia. Pronto? Dimmi. Dai, allora, Giuseppe, io volevo rispondere Alessio. Al signor Zedroni e tutti quelli che la pensano sì. come lui, quelle sciocchezze, eccetera. Il sottoscritto, grazie a una prevenzione e alla medicina, io sono guarito da due tumori, altro che vegano. Per guarire dai tumori bisogna fare le corse immediatamente appena si hanno dei piccoli disturbi, altro che vegano e quant'altro. Io mangio salame, mangio tutto, bevo qualcosa e sono guarito due tumori. Uno magari rene, secondo loro uno a rene e l'altro? Alla prostata, visto l'età che ho, naturalmente, però vabbè, è la prostata, maligno anche quello, mio. Anche quello era maligno. Però ecco, rende. Pino, devo dirti la verità: in realtà, sì. questi signori qua, Red Ronnie and Company e altri vegani, considerano sì. il fatto che se tu mangi in un certo modo, il tumore proprio non ti viene, capito? No, cioè, questo assolutamente, è guarda, no, assolutamente. Beh, ma... no, è impossibile. Ma noi, se facciamo una statistica, caro Giuseppe, allora io faccio con gli amici a volte delle discussioni un po' sciocche, ma così, ragazzi, ci sono tre o quattro cose a ragione della morte oggi. Cioè, infarto, incidente stradale. Sì, va bene, Pino. Adesso questa qua non è la trasmissione di salute. Ciao, Carlo. Carlo, sempre Milano. Vai, no, vai. No. Dimmi. Dunque, sarò molto breve. Quattro parole e poi vi ritiro. Sì. Io volevo parlare della massoneria. La massoneria. No, questo è importante. Che volevi dire sulla massoneria alle 19:22 di oggi? Cosa allora, volevi dire? Allora richiamo domani. No, dimmi Carlo, dimmi. Ancora perché, domani, dimmi perché. Che cambia. Voi parlate tanto di sesso e di altre stronzate. Comunque la massoneria, se non la massoneria, sì. È dilaga. Dilaga? Sì. Dilaga in Italia giorno per giorno. Ecco, dilaga sentiamo giorno un attimo. Attenzione, è parente di Alessio questo. Attenzione. No, sono parente di Alessio e di Alessia. Io dico soltanto... È di Alessio da Padova, lei è un parente. Avevo già chiamato io anche ieri sera. Sì, va bene, d'accordo. È probabile. Andiamo avanti comunque con l'analisi, sì. Quindi la massoneria, sì, prego. Sappiate che sì. i dirigenti sì. finanziari, sì. I gruppi di banche, quelle che comandano in sostanza l'Italia, le grandi lobby chiaro, che possiamo contare sulle dita di due mani, non di più, sì. Dettano al nostro Presidente del Consiglio, che è un affiliato alla massoneria, dettano quello che lui deve fare. Lui, certo. Questo certo. tronfio, ci mancava questo incapace, detto. Questo tronfio. Stronzo, incapace, tronfio, sì. Obbedisce alle direttive della massoneria. Quale massoneria? È una sola. Che domande fai, mamma mia. È quella che condiziona quale il 90% della popolazione cioè? Italiana. Cioè? Come cioè? Cosa vuol dire? Cioè? Quale massoneria? Quale? Quale loggia? La massoneria è una sola! Quale loggia? Quale loggia? Allora, il tuo presidente falla del Consiglio... Falla andare avanti, sì. Il tuo presidente del Consiglio... Però sì. quale massoneria? Come si chiama? Fa venire in mente come si chiama sta massoneria, Carlo? Un burattino. Come si chiamerà un nome sta massoneria, no? Senti, ma tu sei un ignorante o cosa sei? Massoneria. Sì, ma ci avrà un nome. Massoneria Bubù. Non dico vecchia come il mondo, ma quasi. Sì, ma come, ma si, chiama? Come si chiama? La loggia, come si chiama la loggia? No, ma chi parla di loggia? Che l'abbiano suddivise in logge? Logge più o meno importanti sì. o più o meno evidenti è un discorso, ma la massoneria. La massoneria così è in generale. Una cosa unica, sola. Sempre. Sì, ma chi sarebbe ed il capo? Chi sarebbe il capo? Il capo della massoneria. Capo della massoneria. Ma voi fate di quelle domande proprio da casa. Ah, scusi. Fate delle domande, chi è il capo della massoneria? Chi è il capo di questa massoneria? Chi è il capo? Ma vaffanculo, va. Chi è il capo? Ti dico semplicemente che questo burattino... Ma sì. chi? Manca il soggetto, no, il verbo! Questo è Renzi, questo è Renzi. Il burattino, a me viene in mente... Chi ti viene? Arlecchino. Arlecchino, certo. Arlecchino, servitore di due padroni. Sì. Ma di cosa parla? Come aspetta. Presidente del Consiglio, sì. un burattino. Un burattino. Che a differenza... è servitore di un padrone. Quale? Opera sotto dettatura da queste 7, 8 o 9 lobby. Ah, sono 7 adesso. Ah, condizionano l'Italia. Ma pensavo una. 8, 9 possono essere anche. Ma hai detto una. Hai detto una prima. O lobby, ma tu sei devi andare a prenderti un caffè, forse ti svegli un pochino. No, ma hai detto una masoveria. Ti saluto. No, aspetta, sette lobby, poi sette lobby, poi richiamo un attimo che è interessante la mappa delle lobby. Ah, che miseria. Se ne può più, ragazzi. Allora, andiamo a Milano sempre. Alessio, vai, stavolta Alessio da Milano, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao. Dimmi. Comunque complimenti perché li cercate con lanternini i pazzi, No, guardi, chiamano loro, non c'è problema. dimmi. Senti, no, prima avevo sentito di sfuggita la questione su fatto di Napoli, che vanno in giro con le pistole, e hai detto una cosa che a me è piaciuta tantissimo, sospendere il diritto di voto. Cioè, no, ma io non ho detto questo in realtà, io ho detto che bisognerebbe in alcune zone sospendere tutto, non solo il diritto di voto, il diritto di voto è minimo, cioè ma proprio sospendere tutto, circondare, allora, chiudere i posti, chiudere fisicamente, cazzo di domanda, fisicamente i posti, e dice, beh, adesso si ricomincia da capo, signori miei, si ricomincia da capo, chi è dentro è dentro, chi è fuori, si ma ricomincia... Perché non mandano giù l'esercito direttamente? Vabbè, ma con l'esercito che abbiamo, che devono mandare giù l'esercito, ragazzi? L'esercito. Ora, il signore di prima parlava di massoneria e tutto, mafia. Ma tanto ormai tutti sanno chi sono, cioè con internet, grazie a tutte le innovazioni. Adesso non è che con internet si scopre dove è la camorra. Vai giù, mandi giù l'esercito e li fai fuori. Perché, ragazzi, questi non hanno gli stessi diritti, cioè ci pisciano in faccia questi. Altro che diritti di voto, non di voto. Io rispetto anche l'idea che ognuno, cioè i diritti umani e tutto, però obiettivamente fanno il cazzo che vogliono e basta. Richiamate il massone, va. Ciao Alessio, Fabrizio, Roma, Fabrizio, vai. Pronto? Dimmi. Sono io. Sì, ma fino a prova contraria se tu mi fanno impazzire questi. Vai, dimmi Fabrizio, dimmi. Giuseppe? Sì, dimmi. Ah, ciao, ecco, adesso presento. Allora, tre cose al volo. Uno, Alessio da Padova, vi denuncio, a sto cazzo, gli avrei risposto. Ma chi? E li chiudiamo. Alessio da Padova, quello è limitato cerebralmente. Io avrei risposto, così stato un parezzo, denuncio a sto cazzo e chiudo. Ma che vuoi fare? Poi, due cose a niente, pare che vuoi fare, ci vuole pazienza. Ma sì, ma due cose al volo. Allora, io faccio l'NCC. Ho appena portato oggi pomeriggio una persona che veniva da un paese musulmano, quindi di religione proprio musulmana, me l'ha detto lui. Certo. Allora, davanti a me è passato un carro funebre con dentro la salma. Sì. Io ho l'abitudine, come credo molti, di fare il segno della croce. Esatto, gli ha dato fastidio a sta persona. Gli ha dato fastidio perché ha detto che era una mancanza di rispetto. Lo sai cosa ho fatto? Siccome oggi mi giravano parecchi coglioni, sono accostato, scenda dalla macchina, grazie. Mi sento male, la corsa non la posso continuare. Cioè, tranquillo, l'hai lasciato in mezzo alla strada. Se avesse pregato il Corano in quel momento, che era momento di preghiera, quando a me non mi avrebbe dato fastidio. La differenza è poi loro. Questa è la seconda cosa. L'hai lasciato in mezzo alla strada. Terza cosa? Sì, l'ho lasciato in mezzo alla strada. Volevo intervenire sul discorso sanità. Lì mi hai letto proprio nel pensiero. Ma io vado oltre, Giuseppe. E oltre che recintare sospensione dei diritti, tutto ciò che è istituzionale, comunale, pubblico, statale, chiuso, via, scuole, asili, ospedali, circoscrizioni, capito, non è comunali, semplice, tutto via, poi chi ci lavora gli fa la proposta, o vai a lavorare, ti trasferisci fuori da qui, o altrimenti via, a casa, e li lasci abbandonati al loro cazzo di destino di merda. Sospensione dei diritti, ha detto una grandissima cosa, una comunque grandissima, ragazzi, cosa. Grazie Fabrizio, grazie. C'è un tizio che mi scrive dalla Cina, saluti da Shanghai, ed una domanda: ma a te non piacciono le cinesi? Senti Matti, io non tocco nessuna che sia ad ovest di Urumqi da 4 anni. Mamma. Ad ovest di Urumqi, che non so cosa sia, credo che sia una località che segna il confine cinese. Amico mio, ma se tu stai da 4 anni vai solo con i cinesi, ma io che c'entro? Cruciani, che tristezza. Se c'è uno in Italia che parla di cose di cui non conosce, sei tu. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Allora Parenzo, ti faccio ascoltare adesso, un messaggio arrivato da un ascoltatore. Tu probabilmente rabbrividirai per questo messaggio. Ma anzi no, perché ormai sei scafato e sei abituato a tutto. Però ti faccio ascoltare questo messaggio, probabilmente di un camionista, meridionale. Non mi interessa di chi che lavoro fa. No, ma per dire, probabilmente, non lo so, perché si sentivano dei rumori. Io l'ho catalogato come meridionale leghista. È un messaggio molto molto forte, forte dal punto di vista della violenza anche verbale, della violenza verbale nei confronti degli zingari, di quelli che lui chiama zingari. Sentite, una parte, uno spicchio d'Italia. Amici miei, buongiorno. Vi volevo dire che nonostante io sono del sud, ho fatto la tessera della Lega Nord. La tessera della Lega Nord. Così almeno tutta sta minchia di zingari, sti rumeni che bivacquano, chiamatele come cazzo volete, tutti sti camperom fuori dai coglioni, altro che la ruspa, i Doberman ci mandiamo, tutta sta minchia di zingari fuori dai coglioni, se le vuole damocele a Parenzo che se le porta a casa sua, si compra un bel terreno e piglia, fa un recinto e tutta sta gendaia la chiudiamo là dentro come i cani. Prima parte della follia. Subito, c'è anche un atto secondo. Subito dopo richiama e tieni a precisare che. Criminale. No, volevo correggermi. I cani, gli animali sono meglio dei zingari del cazzo. Meglio gli animali che i zingari. Ah, ragazzi miei. Che dici, facciamo un trattamento dopo? Che vuoi fare? Facciamo un trattamento dopo, che dici? Ma no, ma segnala tutto alla procura. No, segnala. Ma procura di che? Che procura? Che dici? Segnala qualcosa con la ma polizia. Ma che devo segnalare? Non devo segnalare niente. È andato in onda. Ma a te non fa schifo? Ma sì, ma certo, ma di che stiamo parlando? Sì, però intanto traffico. Ma scusa, ma un sociologo, perché io alla fine sono un sociologo, quando... Sei il Zygmunt Bauman no, della radio. No, un sociologo. Zygmunt Bauman, appunto. Un sociologo è anche quasi, qualche volta, uno psicologo. Ma si fa inorridire dalle cose che sente? No, le analizza. Le viviseziona. Ma alle volte l'odore è troppo forte. Guarda. Ma d'accordo, ma non c'entra l'odore, uno se lo fa passare. Tanto voglio dire, siamo abituati, non è quello. Uno viviseziona, analizza, scruta dentro, fa uscire fuori. Beh, in qualche modo lustra perché sia tutto più chiaro. Praticamente tu fai delle colonscopie all'Italia. Esatto, bravo. Esatto, delle colonscopie all'Italia. Sei molto bravo. In questo caso hai dato la definizione giusta. Sono quello che fa la colonscopia. Com'è la colonscopia? Si chiama colonscopia. Sì, colonscopia. Non l'ho mai fatta, dicono che è molto dolorosa, lo sai? Beh, sì. No, però ti voglio rivelare un'altra cosa. Mi dicono che è molto molto dolorosa, però dovrei farla. A un certo punto, a una certa età va fatta. Invece mi sono interrogato oggi su una cosa. Cioè, mi scappava la pipì a un certo punto, ero in aeroporto. E non, l'aeroporto, no, dove eri? A Roma, ho fatto un blitz a Roma stamattina. Hai fatto il solito richiamino con la tua amichetta. Ma non ho fatto nessun richiamino, ho fatto un blitz per lavoro. Abbiamo buttato lì un po' di diffamazione. Non ho fatto nessun richiamino. Poi qualcuno dirà: no, non è vero. Intanto abbiamo buttato lì la cosa e abbiamo diffamato un po'. Poi vediamo. Dai. Scusami, ma magari c'è gente che frequento che magari si incazza. Intanto abbiamo detto. Allora, diffamato. Allora, mi scappava la pipì, non sono riuscito ad arrivare in tempo. Sai quando ti rimane quella macchia? Quella macchia sui jeans, no, quella macchia sul pantalone. Mamma. Che devo fare? Così. Ma perché a te adesso vuoi dire che non è mai successo la macchia, la classica macchia? Non è mai successo. A Parenzo non è mai successo. Anche a me, da bambino forse. Ma anche da adulto che ti rimane la macchia sui jeans o sui pantaloni. In qualche caso anche visibile. La macchietta, dai, il tondino là vicino, dai. Ma che schifo. E quando qualche volta scende giù addirittura dalle gambe scende giù. Ma che brutta persona sei. Ma io non lo so. Stefano da Padova, dai. Un altro da Padova, vai. Stefano. Ciao da Padova. Giuseppe. Sì, un altro da Padova. Buonasera, ma che dottore. C'hai contro la tua città? Buonasera. No, perché la mia città non è soltanto, come dire, rappresentata. Adesso non ha ancora parlato. Non ha ancora parlato. Però va bene, non importa, dai. Vai, Stefano, sarà un fratello di Alessio. Allora, posso parlare o Deve parlare, Stefano. Allora, intanto per la colonscopia non ti preoccupare. Sì. Sono un anestesista, te la faccio in sedazione profonda, non ti accorgi di nulla. Non ho bisogno. Ma scusami, però mi hanno detto che comunque è un po' dolorosa la colonscopia. Assolutamente no, guarda, usiamo il Propofol. Per cortesia, dottore, faccia star zitto il signor Parenzo. Ma adesso non ha detto niente. La coloscopia è in sedazione profonda, sogna. E non sente assolutamente niente, non ha ricordi, niente. Ma non ho chiamato per la sua colonoscopia. Ma non la devo fare, pensavo di farlo. Ma lei venga al nostro ospedale, poi in privato le lascerò il mio cellulare, le faccio io la sedazione. Ottimo. Sono molto bravo. Volevo dire al signor Parenzo... Che mi ha molto indignato come ha trattato il signor Alessio di Padova, che io molto non conosco, quindi questo è da dimostrare. No. Comunque, signor Parenzo, sia gentile. Beh, non lo conosce, allora, ha detto che non lo conosce, questo sarà vero. Conosco, per cui ho chiamato e dopo aver sentito comunque come l'ha trattato. Sì. Perché, come merita? No. Lei si bea sempre di leggere Gali della Loggia. No, mi interessa. Guardi. Vabbè, dai, allora... In realtà io credo che nessuno di questi giornalisti, Cacciari e Scalfari, questi nomi che lui cita, secondo me, leggendo anche gli articoli, ma non comprendendo quello che legge, perché nessuno di questi signori si permetterebbe di trattare male così un interlocutore. Sì, ma interlocutore. Tra l'altro fa parte del pubblico della Zanzara. Però Stefano, scusa, è una dialettica che c'è stata tra Parenzo e un ascoltatore. No, non c'è nessuna dialettica, guardi, ho seguito molto bene dall'inizio cioè alla fine. Tu dici che lo ha ridicolizzato e basta, lo ha attaccato subito a sproposito senza assolutamente senza... Un giornalista o quello che perlomeno ma fa quello che vuole, non mi sento francamente, dal mio punto di vista non mi sento di condannarlo. Parenzo si pone nei confronti degli ascoltatori come cazzo gli pare, se uno gli sta sulle come palle come si pongono loro. Ho capito, però vede signor Cruciani, non c'è bisogno del dottore. Mentre lei ha lo stile di trattare una trasmissione all'esterna, che l'ho sentito, ho visto anche il film, su tutto lei effettivamente si avvicina molto, e non lo dico per piaggeria. No, ma non è quello il punto, Stefano. No, guardi, mi faccia finire il ragionamento. Sia gentile, guardi. Ragionamento. Vabbè, Stefano, ho capito. Parenzo ha un atteggiamento quando qualcuno lo attacca. Mi abbasso al suo livello. Il primo che l'ha attaccato dicendo che ha la testa piena di quello che ha detto è stato il signor Parenzo. Mi abbasso al livello di chi chiama. E siccome lui si bea di essere un giornalista, pur non essendo è un incivile. Vabbè, hai detto quello che pensi. È un incivile. Grazie, Giorgio da Napoli. Giorgio, pronto? Dimmi, Giorgio. Senti, Cruciani, io sentivo che tu vuoi in alcuni posti sospendere diritti, vuoi sospendere tutto. Assolutamente, mica solo a Rione Sanità, là dove ho ascoltato quelle voci, anche in alcune altre zone d'Italia. No, ma tu vuoi sospendere, ma inizia con sospendere le tasse. Sì, prima le tasse e dopo sospendi. Quelle vanno abbassate le tasse, che c'entra sospendere le tasse? Ma se tu vuoi sospendere i diritti, inizia a sospendere le tasse e dopo pensa a sospendere i diritti. Ma perché c'entra? Sono due cose diverse. Non sono diverse, perché qui a Napoli lo Stato pensa solo a prendersi le tasse, ad altro non pensa niente. Allora, pensate un attimo a risolvere il problema delle tasse e dopo si risolve tutto. Ma questo sono altre cose, dai, su, poi... Perché voi siete tutti molto bravi a parlare, a sospendere, a fare, però ve lo dico guarda, io qual è il problema. Guarda, sono tanti anni che si parla di tutto e non succede mai un cazzo, ci vuole un'azione forte, sennò tutti continuano a parlare a sproposito di ammazzamenti, gente che c'è in mano le pistole, che vengono fatte vedere... cose dette di fronte a giornalisti con semplici reportage e non succede nulla. Giovanni, sempre Napoli, vai. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi Giovanni, dimmi. In realtà sono un parente di Alessio da Parma. Ecco, pure. Sto scherzando. Vai Giovanni, dimmi. No, volevo fare un riferimento a quello che si diceva prima, appunto, che l'ascoltatore di prima poi si è collegato. Innanzitutto io credo comunque nel Rione Sanità, così anche altri rioni di Napoli, rioni di Napoli, la 167 secondo gli anni. Lì è un problema nel quale non si può scaricare esclusivamente la colpa, diciamo, ai residenti. Cioè, queste sono persone che sono praticamente irrecuperabili all'interno della. Ma ho capito, non è che si può dire come ha fatto l'altro giorno quello che è venuto da noi, il padre del ragazzo ucciso, dicendo che quando uno ruba certo, perché però... lo Stato non dà il lavoro. Ma no, non è lo c'è Stato, quest'idea c'è folle. Un problema, però, perché sì, ma c'è l'idea folle. Lascia per io il resto le dichiarazioni di quello. C'è l'idea folle che tu rubi perché lo Stato ti deve dare qualcosa. Cioè. C'è l'idea che non si possa lavorare umilmente, capito? Non si possa lavorare umilmente. Certo, è più facile pigliare una pistola e rubare, non c'è dubbio, piuttosto che fatica, come si dice, no? Voi fate leggermente un po' quello che volete. La Zanzara. Allora, è la settimana dello scudetto della Juventus, caro Parenzo. Notavo prima una statistica, e sono anche 10 anni da Calciopoli, dallo scoppio dello scandalo che ha cambiato il calcio italiano in qualche modo, sicuramente ha cambiato il palmarès, ma non solo. Notavo una statistica: in 5 anni, negli ultimi 5 anni, a proposito dei rosiconi, a proposito di quelli che ancora dicono no, la Juventus non ha meritato, eccetera eccetera, lo dico da noi juventino, in 5 anni la Juventus ha dato 768 punti alle rivali, cioè ha distanziato le rivali in totale di 768 punti. Sto parlando di Napoli, Roma, Milan, Fiorentina, Lazio e Inter in tutto, eh. Cioè la più vicina è il Napoli, 92 punti di distacco in 5 anni, la più lontana l'Inter, 154 punti, 154 punti, l'Inter ha preso 154 punti in 5 anni, capito? È con noi a 10 anni da Calciopoli Luciano Moggi, ciao Luciano, come stai? Come stai? Buonasera. Grande, grandissima. Allora Luciano, iniziamo da Maradona, dai. L'altro giorno ha detto che la Juventus ha tanti giocatori forti, soprattutto tra gli arbitri all'interno della federazione. Che era ubriaco, si era fatto di qualcosa? No, non lo so, guarda. Io credo che la Juventus, ci sono questi personaggi. Mi dispiace che sia Diego a fare dichiarazioni del genere, però posso anche ipotizzare, cioè? Che le l'abbiano un po' pompata. Perché non no, l'abbiamo dire. Sentita, guarda, l'abbiamo sentita. Ah, ce l'ho. Non mi zitto. Allora dico che è una stupidaggine questa qua, anche perché la Juventus ha dimostrato di... Quando vince un campionato per combinazione, ne vinci due per combinazione, ma poi 3, 4, 5, distanziando gli Ma perché dice queste cose, secondo te, Maradona? Ma perché per la piazza di Napoli, dici? Napoletani. Questo perché direi che Maradona è un tifoso del Napoli, veramente. Devi sapere ha lasciato il cuore a Napoli. Sì, devi sapere, Parenzo, che l'ultimo scudetto vinto da Napoli in realtà è uno scudetto di Moggi. Uno dice tanto, no? Ma l'ultimo scudetto che Napoli se non sbaglio. No, che sbagli, è vero. E che ne so, l'ultimo scudetto c'era Napoli, Moggi che faceva il direttore generale. La Supercoppa, la Coppa UEFA, guarda caso c'era. Allora, tra l'altro molti dicono la Juve adesso lo strapotere eccetera eccetera, quando c'era Moggi, nella tanto vituperata era Moggi, gli scudetti della Juventus consecutivi non furono al massimo 2, cioè al massimo la Juve vinse, credo se non sbaglio anche qui Luciano, 2 scudetti consecutivi. Invece ma la comica sai qual è? Qual è? Che praticamente dal 2000 al 2004 ha vinto la Lazio, ha vinto il Milan e ha vinto la Roma. Sì, se vi ricordate la Lazio come ha vinto, me lo ricordo benissimo, come no? L'alluvione Perugia, cosa, dello stadio, sì? 74 minuti come no? Campione della partita, cosa mai successa prima? Sì. Cioè tu vuoi dire che all'epoca nel tuo periodo questo strapotere della Juventus non esisteva? Eravate voi le vittime, dici? Ma addirittura, beh, ci hanno fatto perdere un campionato, rimettendo in pista, poi vi ricordate Nakata? Sì, come no, che non poteva giocare. Non aveva mai giocato la settimana prima della partita con la Juventus, guarda caso. Ma che vuoi dire con questo? Che voi eravate la parte debole in quel momento? Cioè la Juventus... No, Petrucci era stato segretario della Roma, direttore generale della Roma e poi dopo era diventato presidente e commissario e favoriva la Roma. Ma, insomma, quella cosa di no, ma vuol dire nel complesso, sì, ma Come questo lo ricordo benissimo. Nel complesso, tu vuoi dire che in quel periodo la Juventus era la parte debole rispetto agli altri. Certo, ma è dimostrato da fatti. Abbiamo perso in un'alluvione e guarda caso poi Collina che viene fuori nelle intercettazioni dicendo io vengo a trovare voglio parlare con Galliani ma vengo a mezzanotte, entro dalla porta di dietro perché non mi vedono, tutti questi casi strani che praticamente portano a pensare anche che il Milan se non vinceva il campionato ha pure piacere che non lo vincesse la Juventus. Allora, caro Parenzo, tu non credi alla teoria naturalmente del Moggi come vittima, naturalmente? Assolutamente no. Allora, però penso che Moggi fai male, Parenzo. Penso poi che il Moggione sia un abilissimo. No, io penso che Moggi sia una persona abilissima del suo mestiere e anche una persona molto furba, come è giusto che sia. Non è una vittima, poi. Voglio dirti una cosa, caro Luciano. Perché scoppia Calciopoli? Io so che tu hai una teoria particolare che vuoi tirare fuori qui. Perché scoppia Calciopoli? Cioè, dov'è l'origine di questa cosa qua, secondo te? Sai, quando un difensore di una società va a processo e dice dateci la B con penalizzazione perché altrimenti andremo in C, e dice anche che in una settimana ha letto tutto e ha sentito tutto, 170.000 intercettazioni, e poi viene fuori dai processi che non c'è stata alterazione di campionato, non c'è stata alterazione di sorteggio, ma addirittura 30 arbitri assolti, ce n'è rimasto uno dei santi. Ma qualcuno, a qualcuno di questi hai dato pure una mano, se non sbaglio, o no? A qualcuno di questi? A questi qua assolti hai dato pure una mano. Poverini, poverini, c'era Dattilo, per esempio. Cioè, quanti ne hai aiutati di questi qua assolti da calcio? No, ho aiutati tanti, anche perché mi Hai dato dei soldi, a questi? Beh, no, sì, come l'ho, l'ho anche aiutato in quel senso, perché mi facevano pena. Appunto, l'hai aiutato economicamente. Vittime di un qualcosa che non hanno mai neppure Sì, però l'origine di tutto qual è? Cioè, qual è lo spionaggio dell'Inter? Un'altra società? Quello, però vedi, è difficile stabilire l'origine di tutto. Sai perché è difficile? Qualcuno dice un tuo colloquio con Berlusconi, raccontaci questa cosa qua. Qualcuno dice a me, per esempio, Berlusconi un giorno mi disse a Milano, mi prese da una parte e mi disse vieni a trovarmi a Palazzo Grazioli a Roma. Io addirittura da buon contadino non sapevo neppure cosa se Palazzo Grazioli era a casa sua oppure se era la sede del partito. Andavo lì, prima però mi disse ci sono delle intercettazioni che però non hanno nessuna valenza penale e di queste intercettazioni praticamente sono corrette io, tu Galliani, presidente della Lega, Carraro presidente della federazione e generale Pappa ma non ho capito, perché è importante questa roba qua? Perché secondo te lui che cosa ti offrì? Un posto? Lui, ti offrì un posto? E mi disse che mi voleva portare al Milan, Galliani probabilmente che non la pensava nella stessa maniera, e dunque ha fatto scoppiare un caso che poi dopo ci sono andate tutte le squadre di calcio, perché chiaramente affossare la Juventus era diventato un gioco. Beh, tu stai dicendo praticamente che Galliani, per impedire che tu andassi al Milan, in qualche modo fece scoppiare, non so come, fece scoppiare Calciopoli. Questo no, probabilmente, io non dico con certezza, io dico che da quel momento praticamente vennero fuori intercettazioni che Berlusconi aveva detto non avessero valenza, e che è confermato non avessero valenza, perché in quelle intercettazioni non c'è un qualcosa di cui io ho parlato con l'arbitro, non c'è. No, vabbè, questo qua lo sappiamo. Cioè, sappiamo quella tua che cosa dici, che non c'è, esatto, non c'è la prova di una partita alterata, eccetera. Esatto, ma a questo proposito, tu sei prescritto praticamente come l'Inter. Questa prescrizione, in cui c'è scritto anche secondo la Cassazione che tu sei l'ideatore del condizionamento illecito delle gare, il burattinaio, eccetera, eccetera. Insomma, tu però ti vuoi opporre a questa sentenza della Cassazione, se non sbaglio? L'ho fatto. Cioè, come si fa? Come si fa? No, quella... no, ma come si fa a opporsi alla Cassazione, a parte la Corte Europea sulla radiazione? Io su penso che la Corte Europea abbia qualcosa da dire. Non so se voi vi ricordate dell'avvocato Dupont quando fece cambiare. No. Ma perché tu pensi che quella sentenza si possa ribaltare, quella della Cassazione? Ma io non dico quella della Cassazione, perché la Cassazione parla di potere. Il potere non è mica un reato. Il potere può essere dato, come nel caso mio, anche dalla qualità praticamente del lavoro che facevo. Senti, sei d'accordo con Mughini? Sei d'accordo con Mughini quando dice che lo scudetto dell'Inter, quello là, è uno scudetto di merda e di cartone? Ora io le parolacce non le voglio dire. Che scudetto è quello là? Che sia uno. Ma scusa, quando un presidente Moratti, no? Dice che se lo sente suo. E gli è stato dato da un componente del CDA dell'Inter di Rossi, perché era la società onesta. Cioè, è più disonesto di te, Moratti? Ma io non so disonesto, no, ma leale. E lui è disonesto? Ma leale, no, ma lui è disonesto? Ci sono delle cose. Ma lui è un disonesto o no, Moratti? Come? Moratti è un disonesto? Io questo lo dovete stabilire voi. No, te lo chiedo. Dice? Calcisticamente lo valuto un tifoso. Un tifoso da ultra che praticamente dice sempre le stesse cose, poi come persona non lo conosco io. Un tifoso da ultra. Essere onesto, disonesto. Un attimo solo, fermo. Adesso, per colpa della zanzara, ascolto solo Cruciani e Parenzo. Parenzo e Cruciani. Che schifo. La zanzara. Sono in fabbrica, sto lavorando e veramente mi sta venendo un nervoso a sentire le minchiate di Parenzo. Parenzo, falla finita di fare l'ipocrita. Allora ragazzi, abbiamo con noi Lucianone Moggi in collegamento, non so da dove, penso da Torino. Caro Luciano, voglio chiederti una cosa che riguarda Berlusconi, ma che gli è successo secondo te, che cambia gli allenatori di continuo? È impazzito? Qual è il punto? Ma vuole imitare Zamparini. Cioè, si è messo sulla strada del Zampa. No, eh? Ma io è tanto che scrivo sul Libero una cosa. Anziché cambiare tanti allenatori, cambiare la squadra e chi la fa. Ma tanto vengono. Cioè, cambiare Galliani. Cambiare Galliani. Retta, evidentemente. No. Anche perché il Milan ha sacrificato Massimiliano Allegri, ha sacrificato Mihalovic. Adesso ha sacrificato Pippo Inzaghi, ora Brocchi, insomma troppi. Ma magari vogliono Lippi adesso, tuo amico Lippi, no? Ma sarebbe mica una scelta fatta male. Ma che consiglio gli dai? Prendere Lippi, sì? Di vendere tutto. Dagli un consiglio a Berlusca, dai. No, io ho un consiglio. Io consigli non do a nessuno. Ho espresso il parere mio. Ma dicono che consigli, dicono che ogni tanto qualche consiglio ad Agnelli glielo dai, però, ad Andrea Agnelli, eh? Come? Dicono che qualche consiglio ogni tanto ad Andrea Agnelli glielo dai? No. Beh, Andrea no. Non ha bisogno di consigli. Beh, sicuramente qualche consiglio glielo dai. Beh, figuriamoci, sì. Se non glielo dai, dai. Io non gli do consigli perché lui non ha bisogno. Anche perché poi è stato 12 anni con noi, con il papà. Scusa, quindi... Allegri gliel'hai consigliato tu o no? Dai, su. Allegri, io ho parteggiato per Allegri. Non è che l'ho considerato, non è che lui fa quello che tu non senti mai al telefono Andrea Agnelli, non ci posso credere, dai, su, cioè qualche consiglio proprio mi ignora. Sì, ti ignora, sì, sicuramente ti ignora. Guarda, io sono perché lo so che Allegri è stato un consiglio dato da te, cioè No, io ho sostenuto Allegri. Ho sostenuto Allegri, su questo non c'è dubbio. Qual è l'unico errore con me? Ma l'ho sostenuto con i tifosi. Sì, perché dicevano tutti Conte, io con Conte sono affezionato amico. Però praticamente non posso sottacere il fatto che Allegri era un buon allenatore. Infatti ho detto ai tifosi, i tifosi sono stati bravi a credermi. Qualcuno ha scritto, se lo dici tu ci fidiamo. E hanno fatto bene a fidare. Ma se tu oggi vai a vedere una partita della Juventus in mezzo ai tifosi, che ti fanno? Cioè ti portano autografi e Ma che ti portano sul trono? Che fanno? Ti mettono lì? Ci sta pure questo. Ci vorrebbe fare. Io sono grato a tutti. Ci vorrebbe fare. Bisognerebbe fare curva Moggi o no? Io, vedi, per esempio, scusa, se ci vado io è un trionfo, se si va a Parenzo lo menano. Questo sicuro. Tu sai qual era? Dicono, adesso non vorrei che qualcuno si arrabbiasse, caro Lucianone. Dicono che il grande avvocato Agnelli, pace l'anima sua, avesse un detto, no? Sì. Quando gli chiedevano, ma lei frequenta, lei come fa a stare con Moggi? E lui pare, io non lo so perché dicono. No, e ti sbagli perché lì c'ero io. Ha detto l'avvocato Agnelli, la domanda è stata un'altra. Lo stalliere. Detto come, esatto, lo stalliere del re deve sempre frequentare il ladro di cavalli. Ma perché? L'avvocato Agnelli sapeva la serie di Fidera Mignotta che c'erano e quindi voleva uno esperto. Cioè, voleva un altro fio, voleva uno più fio della Mignotta degli altri. No, questo. Voleva uno che controbattesse queste cose. Lui la sapeva lunga. Tu vuoi dire qui è un complimento, non lo è stalliere del re. È un complimento, tu lo prendi come un complimento. Allora, certo. dimmi una cosa, ma dunque durante il periodo in cui c'eri tu la Juventus in giro era pieno dei fidi alla Mignotta, si può dire così? No, ma questo in generale. Adesso, scusa, adesso è una cosa che si dice in generale, come sì, generale. Comunque Luciano Lemoggi è un grande, c'ha più peli sullo stomaco lui che qualunque orango della Selva Nera, guarda. Veramente no, un grande. Io no, guarda, io non. Senti, ma Dita Vecchio che mi dici? Dita Vecchio, siete ancora amici o ha rinnegato la tua amicizia, Dita Vecchio? Ma come? Ma hai visto la telefonata che mi ha fatto? L'avete messa in onda voi? Sì, e dunque? Ma, vabbè, quello ma, un po'. Ma ha detto che sono un amico suo. Io ho sentito la telefonata. Ma ha rinnegato la tua, ha rinnegato la tua, dai, a parte la telefonata. No, non ha rinnegato proprio niente, perché deve rinnegare? E che ne so io, cioè come fa a rinnegarlo se veniva sempre a Torino da Giraudo, praticamente, quando era presidente della Dilettanti, perché le cose in federazione diceva che non andavano bene. Cioè, non ho capito, veniva sempre da voi a chiedervi favori? A favori, veniva da Torino, da noi, perché praticamente Giraudo era consigliere federale a lamentare. Beh, veniva sempre a chiedere una mano. Vi veniva sempre a chiedere una mano. Chiamiamola dai. Così. Chiamiamola così, diciamola. Vi chiedeva una mano per risolvere alcuni problemi. Cioè, veniva sempre dalla famosa triade. Veniva sempre dalla tanto vituperata triade. No, non veniva dalla triade, perché il consigliere federale era Giraudo. Andava da Giraudo. Tu devi sapere, lo sai, che io ho pizzicato i due in un albergo, casualmente, in un albergo milanese. Erano molto. No, erano molto come dire, erano molto intimi due. Sì, grandissimo il vecchio. Senti, Lucianone Moggi, Sir Lucianone, ancora molto attivo nel campo del calcio, altro che radiato, ancora molto attivo, consiglia, fa briga, telefona. Beh, ancora. Vedi, il consigliere privato non è radiato. Ma tu vorresti, a 10 anni da Calciopoli, vorresti, ma lo so benissimo, a 10 anni da Calciopoli vorresti tornare a fare dirigente di calcio? Se sarà cancellata. In questo calcio qui no. Perché come? Questo è un calcio un po' particolare, vedi che vengono fatte le scommesse, ci sono giocatori che. Vabbè, che stanno in galera. Come? Ci sono giocatori che sono stati messi in galera e poi dopo praticamente sono titolari nelle squadre di calcio. Ma chi vota? Chi vota Luciano alle elezioni? Dove vota poi? A Torino? A Torino vota voti? Oggi? Io voto a Torino. Chi voti a Torino? Ma io Andrea Agnelli. No, ma che c'entra Andrea Agnelli? No, alle elezioni. Ah, ma tu parli politicamente? Sì, politicamente. Buffon. Ma com'è Buffon? Che c'entra Buffon? È candidato Buffon. La lista Moggi. Potresti fare la lista Moggi, secondo me vale elettoralmente. La se lista Moggi. Io una lista, devo dirti che come minimo prenderei 11 milioni di euro. Vabbè, ma questi sono tutti gli occhio però alle firme, alla raccolta delle firme. Senti, Luciano, ma a Torino chi voti? Fassino lo voti? A Torino? Ma io sono a politico. Vabbè, ma qualcuno, il sindaco deve andare a votare, no? Sì, io per esempio quando c'era Chiamparino era un mito per me Chiamparino. Ma adesso, Fassino la stessa cosa, bravo. Cioè quindi... lo voti? E io lo voto. Lo voti, perché male, pure della Juventus, è pure della Juve. È pure della Juve. Senti, tu a 10 anni da Calciopoli sei più ricco o più povero? Economicamente. Sono disgraziato. Ma dai, tutti ti diranno, tutti siamo disgraziati. Ma che le elemose, dai, su, dai. Dai, sei più ricco o più povero? Io sto bene. Stai bene. Sto bene, ringrazio Dio. Guarda, ti posso dire una cosa. La mia difesa in Calciopoli è soltanto dipeso dal fatto che mi sentivo di aiutare gente che erano vittime innocenti. Ma e quanti soldi hai speso per gli altri? Per gli altri? Ho speso quello che sta che ne bene, so, quanto? Perché, ma adesso quantificare è fuori posto, però io ho cercato di aiutare. Pensa che ci sono degli arbitri che hanno scelto Rita Abbreviato perché non ci avevano soldi per pagare, cioè hai aiutato arbitri che poi sono risultati innocenti o no, sbaglio? Ma tutti tranne De Santis, il Calciopoli rimane senza arbitri con chi la fate te le... Ma come la definisci tutta? Una buffonata, una farsa? Come la definisci Calciopoli? Buffonata e farsa sono la stessa cosa, però sapevano perfettamente chi volevano colpire, perché quando il procuratore federale dice che l'Inter è la società che rischia più di tutti per il comportamento illegale del suo presidente Facchetti. No? E poi lo dice quando è prescritta la cosa. Questo significa, cioè, volevano colpire voi. E questo è articolo 6. Mentre noi, vabbè, adesso lascia perdere, non abbiamo fatto articoli 6. Vabbè. Ciao Luciano, a presto. Ciao. A presto. Ciao. Maurizio da Roma, vai Maurizio. Pronto? Vai. Dimmi Maurizio, dimmi. Se n'è andato Lucianone? Sì, se n'è andato, Lucianone. Che volevi dire? Ma scusa, perché non gli chiedevi quando che lui faceva la griglia degli arbitri per sì. tutte le squadre di Serie A? Sì. È vero, dal 2000 al sì. 2004 mi ha vinto la Roma, il Milan, la Lazio, ma gli anni prima che si aggiustava tutte le partite, dopo, si dovrebbe vergognare che è un ladro, sì. È stato condannato a 5 anni. No, non è stato condannato, è stato radiato in realtà. È stato peggio ancora. Dalla giustizia sportiva. L'hanno preso con le mani nel sacco, lui c'aveva 5 cellulari svizzeri, ma come cazzo fa a parlare oggi ancora? Ma non si vergogna, che è un pezzo di merda. Che cos'è? È una merdaggia. Mamma mia, come scatena, Mogione. Io ti capisco che tu fai spettacolo e sì. lo chiami, bravissimo, sì. ma lui si dovrebbe vergognare dove cammina. Sì. Lui è un ladro. È ladro, un ladro. Ladro. Ha rubato ai tifosi le speranze, ha imbastito partite, gente che scommetteva soldi e lui aggiustava tutte le partite. Sì? Ma lui, no, ma queste cose, come stai Luciano? Certo che sta bene, con tutti i soldi che si è rubato, li mortacci sua. È finito? Ladro, è un ladro, è un ladro di sogni, ha rubato a tutti, i tifosi dell'Inter, della Roma, della Lazio. Sono romanista io, chiaro. Sì, sì. Ci ha rubato scudetti, ci ha rubato tutto, partite tutto. E ci prendevano pure per il culo. Tutto. Pure, e ci hanno sempre preso per il culo. Bravi. Ora la Juventus sta vincendo puramente. Ti sei sfogato? Ora, ti sei sfogato? Che non c'è lui, che non c'è lui. Ti sei sfogato? Che non c'è lui. Ti sei sfogato? Come? Ti sei sfogato? Ma certo che mi sono sfogato. Raffaele l'altro. Dalla provincia di Bari. Raffaele dalla provincia di Bari. Ciao. Vabbè. Giuseppe, ciao David. Dimmi. Sono ciao, un tifoso juventino. Premetto che sentir parlare Moggi è sempre un piacere per le mie orecchie. Vabbè, adesso lascia perdere Moggi, che volevi dire? Che ha parlato poc'anzi, ha detto stronzate di ogni tipo. Niente, io volevo intervenire in merito alle dichiarazioni rilasciate da Carlo Alvino ieri sera, alto, la vostra trasmissione. Io mi chiedo come i napoletani possano avere come voce di riferimento questo personaggio, che oltretutto è un giornalista, ma in realtà è un diffamatore per professione. Perché che ha detto? Che ha detto adesso? Ha detto cose vergognose, Giuseppe, dai, ma che cazzo proprio? Ma è possibile? Una signor roba del Carlo genere. Alvino, signor Carlo ma non si possono sentire certe cose, Giuseppe, dai, veramente. Poi il signor Alvino non è nuovo a certe situazioni, voglio dire, sì. è uno che comunque ci taccia spesso e volentieri di essere ladri, di rubare, insomma, non è normale. Io mi auguro che la società Juventus quereli questo signore, così la smette una volta per tutte di dire le sue stronzate e vomitare tutta Vabbè, la sua Raffaele, rabbia. Ho capito. Ciao. Cruciani, tu sei uno stronzo, sei fastidioso, sei spocchioso, sei strafottente, ma io ti amo. La Zanzara. Per la serie I migliori bordelli svizzeri, Cruciani, nel caso passassi da Basilea, fai un salto al nightclub The Red Rose. Ti ospito io, fidati. Adesso fino a Basilea, non esageriamo. Basilea è lontanissima, a nord della Svizzera, lontana, Basilea. Aspetta il massone di prima. Ah. Io ho la febbre, mi sa. Carlo. Febbre. Vado. Giuseppe, provincia di Ancona, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Ascolta, ero arrabbiato, la M si è passata un po'. Non mi sfogo più come ha fatto quello di Roma. Sì. Io ce l'ho con Parenzo. Sì. Con Parenzo perché offende alla gente, diride di Grillo, di quello, di quell'altro. Sarà anche contento che è morto Casaleggio. No, assolutamente. gli è rimasto da fare contro il Movimento 5 Stelle. Ma perché non si vergogna del suo partito? Che non so quale sia il mio partito e ovviamente non posso essere contento della morte di una persona che peraltro ho anche avuto il piacere di conoscere. Io quello che ho preso in giro è semplicemente l'hai preso in giro? Le parole di Beppe Grillo. Ma io critico le idee, ma io discuto le idee. Si possono stimare le persone, però metterne in discussione le idee. So che questo le è lontano come principio. Ma non è mettere in discorso le idee, è che tu sbeffeggi. Posso non essere d'accordo con Beppe Grillo? È ancora legittimo, si può in questo paese ancora non pentastellato non essere d'accordo con Grillo? Si può oppure no? Allora Grillo, quando non si può sbeffeggiare la gente onesta, devi sbeffeggiare i disonesti, capito signor Parenzo? Però che c'entra Giuseppe? Non scendo ai livelli tuoi che offendi la gente in continuazione e gli tutti i titoli. Capito? Però Giuseppe, abbi pazienza, il punto fondamentale qui è che Grillo ha detto che Casaleggio è morto, il cancro gli è venuto, il tumore gli è venuto per l'attacco ai giornalisti. Questo mi l'attacco dei giornalisti, o comunque per le critiche dei giornalisti. Questo mi sembra francamente un po' incredibile. Sarà sicuramente incredibile, ma anche tu, quante trasmissioni, quante gliene avete dette tra televisione, giornali. Ma che c'entra questo? Io cosa dovrei avere? Se fosse così io sarei già morto da 5 anni, da 6 anni che faccio questo programma, dovrei essere sepolto. Non ha fatto niente di male, ha fatto una battuta come tanti. No, ma ho capito, ma se fosse, può essere anche, io questo non lo so, può essere anche che uno si ammali perché sente una pressione intorno a sé, ma io che cosa dovrei fare allora? Ogni giorno dovrebbe andare in ospedale. Dovrei essere morto da 5 anni io. Con tutto quello che mi dicono. Perché ma che ne sa, ma non lo sappiamo. Ma come faccio a saperlo? Io mi dispiace. Vabbè, Giuseppe, ciao. Allora, io dico, e poi volevo un'altra cosa. Io sentire Parenzo che ce l'ha sempre a sostenere i rom, che stanotte qui al paese mio, dove si siede i vecchietti con le badanti, hanno fatto la cacca sopra le banchine, poi l'hanno spalmata, capito? Una pista ciclabile. Perché l'hanno spalmata? Ma perché fanno queste cose a sfregio sempre? Io ho sentito qua al paese della Boldrini, agli esiti ancora. Sì, ma che hanno fatto? È pieno di rom pure là. È un macello, Giuseppe. È un macello, pieno di rom, che fanno la cacca. Ho telefonato stamattina ai vigili urbani, prima i carabinieri, poi i vigili urbani. Ma che fanno sti rom? Ma secondo lei posso dare io ragione a chi fa la cacca e la spalma su una panchina? Secondo lei posso difendere una porcheria simile? Secondo lei no, ovviamente no. No, ma te non li devi difendere proprio questa gente. Le devi difendere solo se fanno il suo dovere. Va bene Giuseppe, ciao. Ruggero Padova, dai Ruggero, dimmi. Un saluto innanzitutto. Allora, ho smesso di ascoltarvi una mezz'oretta fa, dopo gli interventi e soprattutto le risposte che avete dato ai miei concittadini. Allora, io non intendo fare difesa di nessuno, resta il fatto che secondo me la vostra radio dovrebbe avere più rispetto di chi vi chiama. Sì, questo è vero. Perché a un certo punto voi state in piedi perché c'è chi vi ascolta. Sarete anche la trasmissione più ascoltata. No, ma il problema fondamentale è un altro. Da domani ne avete uno in meno. Sì, vabbè, Ruggero, intanto stai chiamando e stai parlando con noi, per cui sicuramente domani sarai all'ascolto della Zanzara. Se uno chiama e insulta, io rispondo. Il punto è un altro, non è andata così. Allora, ascoltami, se non avete voglia di confrontarvi, se non avete voglia di ascoltare chi vi chiama, fate a meno. Ma che dici? Basta. Io Radio 24 la sento dalla mattina quando porto i ragazzi. Grazie, sì. Allora basta, stop. Niente. Sì, ma Ruggero, scusa un attimo, abbi pazienza. Qui Parenzo ha risposto a un ascoltatore che lo attaccava. Magari gli ha risposto in maniera un po' veemente. Sì, certo. Ma non è solo stasera. Guarda, te lo dico con tutto. Dà fastidio sentire due conduttori, o comunque due persone che hanno un programma. E allora che dici? Ma dipende dalla persona e dalla situazione. Questo è anche un fight club, amico mio. Ma se non l'hai capito, ma di che stiamo parlando? Cioè tu stai parlando tranquillamente. Ti abbiamo buttato giù il telefono. Ti abbiamo detto che sei un coglione. Ti abbiamo detto che sei una testa di cazzo. Ma non vuoi capire. Questo è il punto. Radio Padania, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori. senza dubbi neri pensamenti. È tornato Lennox Ferrone. Te lo ricordi Lennox Ferrone? Sembra il nome di una marca di lassativi. Non ti ricordi un cazzo, Lennox Ferrone. Ma è il nome di una marca di lassativi. Ti prego, fuori dall'Italia i profughi a calci nel sedere. Profughi, irregolari, tutti. Chiudiamo tutte le frontiere, le chiudiamo tutte, davvero buttiamo fuori a calci nel sedere tutti i profughi che stanno in Italia, quelli regolari e quelli che hanno, soprattutto quelli irregolari, neanche quelli regolari. La supremazia è degli italiani. La supremazia è degli italiani. Senti, Lennox Ferrone. Questo muro che stanno alzando, in Austria, io non alzerei un muro di cemento, lo alzerei d'acciaio inossidabile, sai, alzerei un muro, ma non solo in Austria. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è alzarlo nei quattro angoli dell'Italia per impedire davvero il penetrare di ancora profughi maledetti, cioè che arrivano ogni giorno qua in Italia. Abbiamo già i nostri problemi. Padania bella e libera, trampa avanti. Però senti questa qua, trampa perché avanti. il culmine prenditi un parrucchino possibilmente di colore giallo che sembri un gatto morto però giallo. Vai a Filadelfia e incontra l'altro dementone razzista, fatti fare una bella foto e mangiati un panino con l'hamburger. A quel punto urla al mondo che gli immigrati vanno cacciati dalla faccia della terra, siano essi gli Stati Uniti o la nostra penisola italiana. Tutto per la libertà. E andiamo con Lennox Ferrone, perché non abbiamo ancora raggiunto il culmine. Ma Lennox, veramente non è un lassativo Lennox. Senti, quell'imbecille di Renzi andrebbe, senti, questo è grave, eh? Intanto bisognerebbe prendere quel burattino, insomma, quell'imbecille di Renzi, quindi, e darlo a rogo, cioè proprio metterlo, dargli fuoco, perché è l'unica cosa da fare. Cioè Renzi andrebbe messo sul rogo, sì, e bruciato, sì. Signor Lennox Ferrone, ospite anche abbastanza frequente di Radio Padana, ma va benissimo, per carità. E senti sulla Boldrini che è forte, senti. Io la Boldrini gli metterei un velo in testa, la manderei in Africa, perché la vedo ultimamente, la vedo con il velo, quindi non so, forse una nuova moda, insomma, li metterei il velo in testa, la manderei in Africa a vivere in mezzo ai beduini, cioè i suoi coetanei, quindi i negri che ci sono in Africa, quindi stanno bene con lei, insomma, lei si troverebbe molto bene con i neri. Chiudi. Non permettere al tiranno di accecarti. Non affermateli però. Vai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. E Nabucco Barin sui ciabattanti e ti cullerà. Questi sono pericolosi socialmente. Tu dici non fanno male a nessuno. Sono tutti uomini giovanissimi, sotto i 30 anni, in emergenza sessuale. Stronzate, dici tu. Io non penso. Ascoltatore contro tutti, Alfano, Berlusconi, Renzi, senti. Alfano è un mafioso, è tante cose, ma non uno di centrodestra. Berlusconi è di centrodestra. Berlusconi è un opportunista, chi è che gli regala qualcosa lo va a prendere. Renzi è di sinistra, ma chi lo direbbe mai? Mussolini assomiglia più a Renzi, anzi, secondo me l'ha anche battuto Mussolini Renzi. Guida il popolo nella tempesta come una madre il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Senti, adesso andiamo all'attacco. Sfonda il muro di onnipotenza che ci arresta. Ferrone? Sì. Ma non ti vergogni a dire quello che dici? Chi è? Ma non ti vergogni? Mamma. Chi? Ah, Cruciani. Ma non ti vergogni? Tesoro mio, quanto sei bello. Renzi che andrebbe sul rogo, bruciato. La Boldrini in mezzo ai negri. Ah, la Boldrini, certo. Hai visto che si è messa il... Come si chiama? Si è messo il foulard adesso. Allora? Sinceramente tiene conto, cioè gli piacciono i negri la Boldrini. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai? Ma che dici? Come si permette? Scusami Cruciani, posso farti una domanda? Dimmi, che domanda. Mi passeresti quel sordomita di Parenzo, per cortesia? Sordomita, t'ha detto, sordomita, eccolo qua, sì, è qui Parenzo, è qui, dillo. Io non ho mai conosciuto nessuno di più ignorante e razzista di questo qua, mai. Parenzo, senti, ti dico una cosa. Ma tu sei fascista, Ferrone? Ah? Tu sei fascista, Ferrone? Ma certo, Parenzo. Ma scusami. Certo. Parenzo, ma certo. Ti ricordi l'ultima volta che ci siamo parlati? Che vero? Salame. Eh? No, per fortuna non mi ricordo. Non è che tengo nota di quando. Mi ricordo io, Nano Malefico. Ti ricordi? Che dici a Nano? Che dici? Ti ricordi? E che no, non ci ricordiamo. Dici ma che ancora, cosa? Ancora, ti ricordo. È che mi ricordo le stupidaggini che dice questo qui io tutti i giorni. Sì. Tu ti devi sciacquare i coglioni con me, Parenzo. Perché? Che hai fatto? Ma che cosa sa chi sia questo brutta qua? Brutta faccia di merda. Ma perché? Che ha fatto? Che ha fatto, Parenzo? Che cosa ha detto, Parenzo? Vai a vedere, testa di cazzo di merda. Ah, ma vai, senti, non Ferrone. Senti, imbecille. Ma non ti vergogni che non di quello che hai detto? Renzi deve essere bruciato a Roma. Non mi vergogno di quello che ho detto. Si dovrebbe vergognare. Perché, guarda, io ti tu eri ospite di Radio Padania, una radio nazionale, pagata con i soldi nostri. Pagata con i soldi nostri. Hai detto e hai detto che Renzi andrebbe bruciato, vergognati. Ti denunceranno, abbiamo perso le tracce di te, Salame, vedrai. Perderemo le tracce di te, perché per fortuna ti denunceranno per le stupidaggini che hai detto. Allora, io ho visto l'ultima puntata, no? Ho visto che facevi il buffangello con Vassallo, sì. Parenzo. Ma che c'entra adesso? Ero io, non Vassallo. No, era Cruciani, io ti rispetto perché tu sei un personaggio di tutto rispetto. Ma io non voglio il tuo rispetto. Ma quel pezzo di merda che c'hai vicino, ma che c'è? Ma perché? Che ha fatto? Scusa, che ha fatto? Come hai detto? Che cosa fa? No, ripeti un attimo cosa hai detto? Pezzo di M, dai, solo. Un pezzo di merda. Ma perché? Perfetto, ti arriverà sei una querela. Non io parlerai basta, Ferrone, più. Ferrone, io voglio capire una cosa. Perché dici che Renzo non mi interessa infame, quello che dici? Ma infame maledetto. Fermi tutti, fermi. Ti Ferrone, entra dell'avvocato imbecille. Di addio Ferrone, a quel poco che fermo hai. Là. Di addio a quel poco che hai, imbecille. Ferrone, che ti chiedo, tu che ti porto via tutto. Ti porto via tutto. Ferrone, di fame sei tu, ma Ferrone, perché vedrai cosa ti arriva a casa, vedrai che non canterai più. Imbecille Ferrone, perché hai detto Ferrone razzista di merda, perché? Schifoso razzista, no, schifoso vi calmate un attimo, schifoso razzista, vedrai cosa ti arriva a casa. Dillo che la sei razzista dell'avvocato. Dillo che sei razzista, la dillo che sei razzista ti arriva. Vediamo Ferrone, ti dillo che sei razzista. Ma devi venire tu con l'avvocato. Dillo vedrai che sei razzista. Vedrai quanto mi diverto quando ti vedo devi in tribunale con tu. Quella faccia vedrai cosa hai detto. Ma che c'entra? Che c'entra? Cosa hai detto? Aspetta sei degenerata. Dai, cosa hai detto? Dai, cosa hai detto? Incontriamoci per strada. Ripeti, perché cosa fai? Che fai? Ti spacco la lingua, nano. Ti spacco? Cosa ragazzi, hai detto? Basta, niente, ragazzi. Cosa hai detto? Pubblicità. Cosa hai detto? Pubblicità. Addio! Addio a tutto! Addio! Addio! Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara. Viva la zanzara! Ciao Crucians! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, ma te di cosa te ne frega? A te non te ne frega un cazzo di niente. A te basta che si parla di puttane, trans, un proctologo che ti spiega come lavarti l'ano e basta, a te solo quello interessa, solo quello. Allora andiamo a Roma, Federico, vai. Buonasera, ciao. Dimmi. Senti, io ti ascolto da quando Davide lei ha degli ascoltatori. Poi non so che cosa ci è intervenuto, siete passati proprio alle parolacce direttamente. No, siamo passati al tu, agli ascoltatori, e va benissimo così, vai. Ok. Senti, io sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni di Obama. Sì. Nel senso che ha magnificato il fatto che l'Europa non erige muri. Peccato che per andare da lui, anche se sei una persona, diciamo, che ha un lavoro, che vuole visitare per turismo, ti fanno fare l'esta, devi avere le impronte digitali, e se non hai il permesso non entri, non c'è niente da fare. Bene così, secondo me. Bene così. Però tu dici che Obama è ipocrita, tu dici. Assolutamente, ma perché? Poi soprattutto nessuno glielo fa notare. In Europa. Sì, vabbè. Vabbè, poi? E poi volevo dire, insomma, sono rimasto abbastanza colpito pure da Papa Francesco, che è andato a prendere 12 persone, poverazzi, sì, per carità, insomma, gente... Sì, roba vecchia, però, è successo qualche giorno fa, Federico. Lo so, però magari forse, sai, magari solo nel palazzo mio ci sarebbero 12 persone che avrebbero bisogno di un lavoro, di un aiuto economico, e non è populismo questo, è solo buonsenso. Purtroppo tutti noi conosciamo persone che stanno in difficoltà qua. Adesso non è che facciamo una differenza fra stranieri e italiani. No, però... qualcuno ha detto che è come quei milionari che danno degli spicci, cioè Papa Francesco si è comportato come quei milionari, e la Chiesa è multimilionaria, che regalano ogni tanto degli spicci ai passanti, così. E un po' è vero. Pasquale, Napoli, vai. Pasquale, dimmi. Cos'è? Dimmi. Buonasera. Dai. Senti, ho sentito che tu hai rapido. Non si sente quando... niente, Alessandro da Roma, dai. Eccoci, dimmi. Salve, buonasera a tutti, sono contento di sentirvi, è la prima volta che chiamo. Vai, Alessandro, vai. Ma io ho capito bene, il signor Terenzio Parenzo, difende, sì, questi extracomunitari. No, non le ho capito male o... Ha capito male, io non difendo. No, Alessandro, vai al solo, che cosa vuoi ma dire? Io vorrei capire una cosa, perché io tante volte quando sento ancora questo buonismo, dico, ma queste persone lavorano solo in un posto, non si muovono da lì e non si rendono conto di quello che succede in giro, cioè di come sta cambiando tutto. Di come veramente tu invece vai in giro, Roma, tu invece metti paura, tu invece vai incontri, tu invece vai in giro, vivi in mezzo. Io sono un imprenditore e ho un'azienda che, insomma, mi fa girare anche tutta, sì, l'Italia, sì, e ne vedo di tutti i colori. Io la sera quando vado a Milano, che rientro, ma dove a casa, si trova la lavoro, tua azienda? Sono vicino alla stazione centrale, sì, mi levo l'orologio, mi nascondo il portafogli, perché ormai come me tanta gente è stata derubata, cosa che Però scusami Alessandro, adesso io sono venuto a Roma tante volte, non è che quando arrivo a Roma Roma meno, è vero, o in altri posti mi tolgo l'orologio adesso, francamente. No, no, Roma meno, però io vi invito ad andare alla stazione centrale. Di che? Infilarsi a via San Martino della Battaglia o a ma via dove? Volta, quale a stazione? Milano. Ma mille volte sono arrivato alla stazione centrale di Milano, ma di che stai parlando? Ma ultimamente, no, io la stazione centrale di Milano. Vabbè, ma non ho capito, tu hai chiamato per questo? O per parlare, sì, di un'altra cosa? Voglio dire, questo buonismo sono veramente un po' infastidito. Troppo va buonismo, bene, Salvatore, Lecce, vai, Salvatore, andiamo oltre. Salvatore. Sì, buonasera. Dimmi. Faccio un intervento per quanto riguarda l'autista sudista che hai detto tu del sud. Invece di farsi le tessere, leghisti, grillini, che facciano qualcosa per aiutare gli italiani. Vabbè, Salvatore, ciao. Giovanni Sernia, vai, adesso li guido tutti così. Giovanni, vai. Ciao Cruciani, io volevo intervenire per quanto riguarda i vegetariani e soprattutto i vegani, sì, che dimmi. Dicono che non uccidono, loro non uccidono le zanzare, non uccidono topi, non uccidono animali, e quindi sono io vorrei soltanto allora, ricordare... Allora no, oggi no, ricordami, dimmi, che vuoi dire? Volevo soltanto ricordare che quando il contadino semina... l'insalata, il cetriolo, il grano che loro mangiano, sì, deve arare il campo. E dunque ammazza un sacco di animaletti. Col trattore e con l'arato. Allora, oggi ho letto, grazie, oggi ho letto un tizio che si chiama Andrew Smith, che è un professore in un'università, credo in America o in Gran Bretagna, che ha scritto un libro, La critica del vegetarianismo, sostenendo che non può esistere, perché chi non mangia il vegetarianesimo, diciamo, chi non mangia la carne è moralmente indifendibile. Vi rinfresco un po' le idee. Aspetta. Primo punto è questo: i vegetariani evitano di mangiare gli animali, preferendo nutrirsi di frutta e di verdura. Le piante però prendono i loro nutrienti dal suolo, composto da resti organici, animali e vegetali. Quindi chi afferma di aver adottato una dieta basata solo sulle piante, in realtà mangia lo stesso resti degli animali. Ecco perché è impossibile essere vegetariani. Poi ancora, la questione per cui i vegetariani sono praticamente indifendibili. Non mangiano gli animali perché sono dotati di coscienza, no? e preferiscono nutrirsi di piante, in quanto non dotate di coscienza. Anche se non ci sono prove che queste provino dolore, secondo Smith ci sono buone ragioni per credere che sentano in qualche modo. Per cui seconda cazzata. Soprattutto perché le piante sarebbero non soltanto in grado di rispondere agli stimoli esterni, ma sarebbero dotate di più di 20 sensi e di un sistema ormonale di elaborazione delle informazioni simile a quello degli uomini. E poi, ancora, altro punto demolito dal ragionamento del professore, quello che vuole i vegetariani e amici del pianeta. In realtà, per confezionare i prodotti, è richiesto comunque un dispendio di risorse, soprattutto di acqua. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Dai. Giovanni da Bari. Giovanni, dimmi. Pronto? Ciao. Senti, hai rimesso in vendita, cioè in affitto il tuo sedere. Ma no, ma tempo fa c'era stata questa cosa, sì, tempo fa, 200.000 per la mia verginità anale, ma questo tempo fa. Eh sì, solo che chiaramente da solo non ce la facevo, abbiamo trovato un po' di persone che hanno messo un contributo. Cioè tu hai raccolto 200.000 euro? Sì, però siamo 400 persone. E vabbè, Giovanni, ma manda una mail alla zanzara @radio24.it. No, manda un bonifico più che altro. No, manda una mail. Manda una mail alla zanzara @radio24.it. Io poi ti contatto. Sì, però tutti gli altri. Sì, ma non ti preoccupare. Per tutti o solo per uno? No, solo per una persona. È inutile che fai il buffone qua. Prima vedere cammello, 200.000 ce li avete? Cioè mandate la mail, mandatemi dopo, io vi mando le coordinate. Appena vedo il bonifico, contatto chiunque è disposto a fare questa cosa e via. Per cui Giovanni, inutile che fai il buffone adesso tutti e 400, no, una persona sola. Fate il bonifichetto, la zanzara è @radio24.it con tutte le coordinate del caso. Mi chiami, ti do le coordinate, ok Giovanni? Va bene. Okay. Ciao. Ciao, scoperto il buffone, dai. Allora, abbiamo con noi una persona, una ex soubrette showgirl che si candida al comune di Milano. Sì, si chiama sì. Simona Tagli, te la ricordi Parenzo? No, Simona Tagli, sì, ma ciao come Simona, ciao a tutti e buonasera, complimenti. Allora Simona miti, Tagli, siete dei miti, dei miti, come dei stai miti. Cara, come si stai? Si candida con la signora Meloni per Fratelli d'Italia, sì. Capito? Sì, ma io faccio un inciso, inciso, che devi quello fare? Che stavate dicendo prima. Non fa male quello che si pensa faccia male come alimentazione, ma fa male quello che noi pensiamo faccia male. Ma scusa, tu sei vegetariana pure tu? No. Non no, sei. Io mangio tutto. Mangi tutto, la carne la mangi. Non fa male quello che le mode, non bisogna seguire le mode nell'alimentazione. Ma qual è l'ultimo programma che hai fatto? Tanti anni fa ormai o no? Ma guarda, l'ultimo, io sai che ho una prerogativa, non riesco ad andare indietro con la testa, posso andare solo avanti. Vabbè, ma dimmi l'ultimo programma, giusto per ricordare, no? Come non te lo ricordi? Me lo ricordo. Mi ricordo molto bene il cruciverba, e allora ecco perché nel mio volantino elettorale ho messo il cruciverba. Allora, Simona, io voglio capire una cosa, ma sì. Per esempio tu a Milano, dato che sei di Alleanza Nazionale, anzi no, di Fratelli d'Italia, ma tu lo faresti un bel gay pride, bellissimo, gay pride a Milano, cioè daresti l'autorizzazione a fare il gay pride, ti piacerebbe? Ma guarda, i diritti sono di tutti. C'è il matrimonio gay, sei d'accordo? Il matrimonio? No, io conosco molto bene il vostro modo di pensare, però devo dire la verità, io sono per la famiglia in senso tradizionale. Sono una persona tradizionale. Con questo sì. Non tolgo niente al gay pride, per carità. Ma l'adozione tra gay no. L'adozione l'importante no. È che non ci sia una controtendenza, che non che diventino le persone etero anormali e le persone invece che hanno un loro scusa? Pensiero poi protagonisti. No, insomma, non ho capito, scusa, non ho capito, scusa, è meglio libertà di pensiero, c'è libertà. Sì, no, tutto, aspetta un attimo Simone, non ho capito. È bene che le persone etero non diventino anormali, cioè non ho capito bene. Sì, no, a volte si rischia di andare in controtendenza. Cioè? Allora, tutto quello che cioè è normale, che sono etero anormale, sì, tutto quello che rappresenta una minoranza, diciamo così, diventa poi in realtà la normalità. Cioè, non ho capito, io ma sono per il rispetto di tutti quanti della normalità. Sì, però Simona, spiegami, c'è un po' la di confusione. La famiglia però per me è tradizionale. Sì, no, ma io non ho capito bene delle cose. Il passaggio però. Da etero ad anormale, cioè c'è il rischio che gli etero diventino anormali? Eh sì, perché con queste manifestazioni, con questo volere imporre la trasgressione, in realtà poi la normalità diventa una minoranza. Cioè c'è il rischio che prevalgano gli anormali, diciamo. Ma no, non è questione di anormalità. Di tu l'hai detto anormali. Insomma, ho usato un termine. Anormali? Ma no, no, che sbagli? I gay sono anormali, magari, secondo te? No, sono normalisti. Beh, sono anormali. Ma è una minoranza rispetto alla normalità. La regolarità. Appunto, sono anormali. La regolarità. Sono talenta. Deve trasgressione. La trasgressione. La regolarità. La regolarità. Sono irregolari, cioè, in pratica. Cioè, ma due, non ho capito, ma due omosessuali che fanno all'amore è una cosa orribile secondo te? Due no, uomini, non due sono uomini. Moralista in questo, non sono moralista, però spesso si ostenta nelle manifestazioni gay pride, si vuole ostentare un qualche cosa che come per voler affermare un diritto. I diritti ci sono, i diritti sono dentro casa di ognuno dentro manifesta casa, fuori no, fuori quello no. che vuole come vuole, c'è sì, libertà, c'è grande però, confusione. Per me la famiglia è anormale. Che dici anormale? Mamma, papà e bambino. Sì, ma si guarda, normale, supercazzo. Ti ricordi la normalità o no? La normalità tutto fa parte della normalità, anche la trasgressione. Quella destra, sì, ti ricordi quando c'era cosa, Parenzo, che dicevi? No, la normalità, perché l'avevano fatto prima, no? Ti ricordi o no? Simona? No, non ti sento, scusa. No, dico la normalità. L'avevano fatto perché era normale prima. Anche prima era normale, no? Eh sì, è tutto, fa parte di un tutt'uno, è la normalità. Esatto, è tutto. Poi nella normalità c'è anche la trasgressione. No, anche uno perché quando uno fare. Si prende la responsabilità sì, e quindi diventa normale, quindi diventa conseguente. Capito? Ma sì, insomma, adesso stiamo facendo una supercazzola pazzesca. No, ma quello che era primo è tornato avanti, capito? Sì, va bene. No, non è questione di essere primi o di essere no, ultimi. Ma quello che era prima avanti è tornato. Che saranno i primi. Sempre ma in quello, ogni sempre, caso, sempre. Per me la famiglia è sì, sempre la famiglia prima di tutto, sempre prima di tutto, sempre con le corna dentro la famiglia, però quello sempre, Mica... Speriamo di no. Sì, ma quello sempre ci sono, tanto la famiglia tradizionale. Sempre? Speriamo di no le corna, oh. Dobbiamo chiudere, ragazzi. Ciao. Meno ciao, male, ciao, va. Ciao. Viva la zanzara non si tocca, non posso stare senza zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione. Lo dica, a casa, lei lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, la passione. Si sente.